Focus Economia. Sei minuti, Focus Economia, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Diversi temi che affronteremo in questa puntata. Oltre al consueto approfondimento di borsa, parleremo allora della RAI. Tutte le caselle sembrano essere al loro posto per quanto riguarda il rinnovo dei vertici. Non entreremo nelle dinamiche politiche che hanno portato alle scelte, ma cercheremo di capire dove va la TV pubblica, quali sono i lacci che la frenano e le sfide della concorrenza. Ed ancora, la cronaca delle ultime 24 ore ci obbliga a tornare sul tema del dissesto idrogeologico del nostro paese. Ieri il dramma nel Cadore e più in generale montagne che si sbriciolano, il problema del contenimento dei fiumi nei tratti urbani. Come rispondono le autorità? Si parte con la dichiarazione dello stato di emergenza e poi tutto resta, come sempre, da verificare. Oggi però il governo accelera e presenta un piano da 1,3 miliardi al Veneto, 153 milioni. Telefonia poi, accordo fatto tra Wind e Tre Italia, un accordo da 6,4 miliardi di euro per quello che si preannuncia come nuovo operatore leader del mercato del mobile. Questi i temi forti di oggi, spazio quindi a tante altre notizie, dalla partenza anticipata della vendemmia all'embargo della Russia su alcuni prodotti alimentari che compie un anno e che è costato al nostro paese perdite in termini di export per quasi 300 milioni di euro. Vi ricordo che potete scriverci allora al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Prima delle notizie in breve, uno sguardo veloce ai mercati, seduta in calo per le borse asiatiche con l'eccezione di Tokyo più 0,2%, sostenuta da trimestrali robuste e dalla debolezza dello yen sul dollaro. Mercati azionari europei senza una direzione precisa dopo la diffusione del dato sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti e l'avvio di Wall Street. A parte Atene che sale sorprendentemente del 4% con un timido tentativo di recupero delle banche, tutti i mercati principali si muovono attorno alla parità. FTSE MIB in questo momento meno 0,05. In particolare sono deboli Mediaset, Moncler in calo Telecom, solida invece Intesa San Paolo, forte MPS più 2,2% prima della trimestrale. Dicevamo FTSE MIB meno 0,05, Francoforte meno 0,26, Londra meno 0,13, Parigi più 0,12, Wall Street meno 0,15. Euro su dollaro 1,087. Per i cambi protagonista anche la sterlina, che nelle ultime ore torna a salire nei confronti dell'euro dopo lo scivolone di questa mattina a seguito della decisione della Banca d'Inghilterra di lasciare fermi i tassi di interesse allo 0,5% e rinviare al 2016 il primo rialzo. Ecco perché ci occupiamo della sterlina, quindi euro su sterlina 0,70. Questo è il nostro sommario, passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che come sempre iniziano con le materie prime. Oro 1.088 dollari l'oncia più 0,5%, il petrolio WTI a New York 44,5 dollari al barile meno 1,5%, quindi permane la debolezza del petrolio. Per quanto riguarda l'economia internazionale è la notizia di apertura di tutti i siti in questo momento. Parliamo dell'Egitto che inaugura il nuovo canale di Suez, è un raddoppio di fatto, intensi preparativi nella città di Ismaila per la cerimonia con circa 10.000 agenti dispiegati in 6 province per garantire la sicurezza. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha aperto la cerimonia con una parata navale. ma quello che ci interessa di questa notizia non è tanto l'aspetto quindi della cerimonia, ma i costi e i tempi di realizzazione. I lavori erano stati inaugurati lo scorso agosto dallo stesso presidente, lungo 72 km. Il nuovo canale correrà lungo quella già esistente che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo, permettendo la circolazione in entrambe le direzioni, riducendo i tempi di attesa delle imbarcazioni da 18 a 11 ore. La nuova via, questo è l'aspetto più interessante, è stata costruita in meno di un anno per un costo di 9 miliardi di dollari, sostenuto principalmente dalle partecipazioni vendute agli egiziani. Questo per dire che quando le cose si vogliono fare, si fanno, e anche in tempi brevi. Un titolo ora della moda: Zara vale oltre 100 miliardi, supera Telefonica e Santander. Inditex ha sfondato i 100 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. Il valore del più grande negozio di vestiti al mondo, forte del marchio Zara, secondo Bloomberg è aumentato nell'ultimo anno del 36%, fino a diventare l'unico gruppo spagnolo tra le circa 80 società miliardarie nel mondo, superando le connazionali Telefonica e Santander. Il fondatore Amancio Ortega ha sorpassato così Warren Buffett come secondo uomo più ricco dopo Bill Gates, con un patrimonio di 72,3 miliardi di dollari. Questa è una notizia che ha influito sui mercati azionari di oggi. Negli Stati Uniti le richieste di sussidio di disoccupazione sono aumentate la scorsa settimana di 3.000 unità a quota 270.000, continuando a viaggiare a ridosso dei minimi da 40 anni. Ora due notizie che riguardano direttamente e indirettamente la Grecia. Prima il mercato azionario, lo dicevamo nel nostro sommario, prima giornata di rialzo dopo la riapertura per la borsa di Atene. L'indice principale ha chiuso in crescita del 3,6% dopo aver perso il 19% nelle tre sedute precedenti. Rimbalzo per alcuni titoli bancari: National Bank più 27%, Eurobank più 17%, qualche tensione sui titoli di Stato con il tasso del bond a due anni che sale di 43 punti base. Notizia ancora più interessante: il Fondo Monetario Internazionale non deciderà fino all'autunno se partecipare o meno al salvataggio della Grecia, lo ha detto il direttore per il Nord Europa del Fondo Monetario Internazionale, lo svedese Thomas Ostros, in un'intervista al quotidiano Nighter, secondo quanto riporta Reuters. Il terzo pacchetto di aiuti non potrà essere approvato prima del 20 agosto e molto probabilmente sarà necessario un nuovo prestito ponte per la Grecia. Lasciamo la Grecia, la Germania. Gli ordini in fabbrica in Germania sono cresciuti del 2% a giugno, in decisa ripresa rispetto al più 0,3% di maggio e molto di più dello 0,3% atteso dagli economisti consultati da Bloomberg. Rapidamente allora, adesso l'Italia, il fisco, Guardia di Finanza, in 6 anni movimentati 33 miliardi con San Marino. Tra il 2009 e il 2014 sono stati movimentati tra Italia e il piccolo paese indipendente oltre 33 miliardi, lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che ha avviato uno specifico piano operativo nei confronti degli oltre 58.000 soggetti che hanno trasferito il denaro dal nostro paese alla Repubblica del Titano o viceversa. L'Istat, che semplifica le sue comunicazioni anche ad uso di noi che lavoriamo intorno a questo settore, da settembre l'Istat uscirà con un nuovo comunicato trimestrale intitolato Il mercato del lavoro, in cui confluiranno i dati delle diverse indagini. Lo comunica il presidente dell'Istat all'Eva, spiegando come l'informazione cambierà e sarà più completa a 360 gradi. Tra i progetti dell'Istat c'è, fa sapere sempre all'Eva, anche il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione per studiare la transizione dalla scuola al lavoro. E sempre dall'Istat un altro annuncio di alleva: abbiamo allineato l'uscita dei dati sul PIL a quella degli altri paesi europei. Questo è un aspetto molto importante, perché almeno questo è il mio commento, riusciamo quando escono a commentarli avendo dei termini di paragone. ora un'anticipazione di un tema che andremo a trattare nell'ultima parte di Focus Economia, risorse per 1,3 miliardi di cui 654 milioni già finanziati per avviare cantieri nelle principali città contro le alluvioni e il dissesto idrogeologico. Questo l'annuncio del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti nel corso di una conferenza stampa dove è stato presentato un piano Galletti lo definisce vero, con risorse spendibili da domani. Poi sempre da Galletti alcuni dati sulla ripartizione di questi valori. È Genova con 323,5 milioni la città a cui sono state destinate più risorse, seguono Milano e Padova, ma ascoltiamo un passaggio di Galletti. Noi all'inizio di questo governo avevamo promesso di mettere al centro il dissesto idrogeologico. Oggi noi presentiamo un piano vero con dei soldi veri, con delle risorse già spendibili da domani. L'abbiamo fatto con un grandissimo lavoro di organizzazione e di programmazione. Credo che a questo debba seguire un impegno concreto anche da parte delle regioni, perché queste risorse diventino nel più breve tempo possibile cantieri sul territorio. Ci sono tutte le condizioni perché questo possa avvenire, ripeto, in tempi brevissimi. Noi presentiamo un piano da 1 miliardo e 200 milioni, ma io con molta responsabilità vi dico che di questi 1 miliardo e 200 milioni oggi le risorse già disponibili sono 600 milioni, le altre arriveranno nei prossimi mesi. Io credo, e spero che questo sia vero, che noi già dall'inizio dell'anno saremo in grado di mettere a disposizione delle regioni gli altri 600 milioni, in maniera che il prossimo anno possa partire il piano nella sua globalità, quindi 1 miliardo e 200 milioni. Nessuno pensi che questo possa risolvere il problema del dissesto idrogeologico in Italia. Noi davanti abbiamo un lavoro lunghissimo che durerà probabilmente oltre alla legislatura in corso, perché il problema del dissesto idrogeologico in Italia è un problema enorme, perché per troppo tempo noi abbiamo dimenticato di tenere in manutenzione il nostro territorio, e questo ha causato una situazione davvero difficile. E così dunque le parole del ministro dell'Ambiente Galletti nella presentazione del piano per contrastare il dissesto idrogeologico. Lo ricordo, ne parleremo nell'ultima parte di Focus Economia. Adesso molto velocemente con le altre notizie in breve. Per quanto riguarda Fiumicino, sappiamo quanto è successo nell'aeroporto romano nelle ultime settimane. Per quanto è successo invece nello specifico nell'incendio del 29 luglio, l'ENAC dice che si è determinata una sproporzione nella gestione dell'operativo dei voli. Praticamente, secondo l'ENAC, sono stati gestiti 90 voli in arrivo e 40 voli in partenza, che hanno portato ad una congestione sia delle piazzole di sosta degli aeromobili sia di passeggeri nelle aerostazioni per le partenze e per i transiti. C'è subito la risposta della società Aeroporti di Roma, che dice: Aeroporti di Roma collaborerà con grande impegno con ENAC, ritenendo utili criteri più chiari e stringenti anche in vista del trasferimento di responsabilità di tale attività al gestore aeroportuale, che finalmente si realizzerà nel 2017. Andiamo in Russia velocemente. L'embargo sui prodotti alimentari da parte della Russia è costato all'Italia circa 240 milioni di euro in un anno solo di mancato export nei prodotti agroalimentari made in Italy direttamente colpiti, ma le perdite sono nettamente maggiori se si considerano gli effetti indiretti che riguardano altri prodotti ed altri settori. Lo dice la Coldiretti: i prodotti italiani più colpiti sono stati la frutta fresca, i lattiero-caseari, i formaggi e la carne e i suoi derivati, ma tra questi a soffrire sono molte specialità alimentari come il parmigiano reggiano e il grana padano. E sempre per quanto riguarda la Coldiretti, il caldo anticipa la vendemmia. da oltre un decennio, infatti non era mai iniziata così presto la vendemmia in Italia, che quest'anno si prevede con una produzione stimata in aumento di almeno il 5% rispetto allo scorso anno, per un totale atteso di circa 44 milioni di ettolitri, con ottima qualità. E quanto stima sempre la Coldiretti, sentiamo allora Domenico Bosco, responsabile vino della Coldiretti, intervistato da Piera Ceci. Vendemmia anticipata rispetto al 2003, che sostanzialmente negli ultimi decenni è stata l'annata più anticipata in assoluto, siamo con 4-5 giorni di ritardo. In ogni caso è un'annata molto anticipata, perché in genere le primissime uve che sono raccolte, che sono quelle destinate agli spumanti, vengono raccolte in prossimità del Ferragosto, subito dopo il Ferragosto. Invece diciamo quest'anno, in questi giorni, quindi a partire da ieri, oggi e nei prossimi giorni, sostanzialmente buona parte delle uve destinate agli spumanti, in particolare le uve Chardonnay e Pinot delle zone tipo Franciacorte oltre Po Pavese, si iniziano a raccogliere. Quindi sostanzialmente c'è un anticipo, e questo anticipo è dovuto al particolare andamento climatico, che ha visto temperature molto elevate nel mese di luglio, e questo ha anticipato quella che è l'epoca di maturazione e quindi di raccolta delle uve. Le condizioni climatiche porteranno anche ad una vendemmia abbondante? Ma le condizioni climatiche, diciamo, le stime quantitative al momento, sebbene sia anche molto precoce poter fare delle previsioni che siano considerate attendibili, ci sono tutte quante le condizioni per avere un aumento di quelli che sono i quantitativi di produzione. Al momento stimiamo una crescita rispetto agli 42 milioni di ettolitri circa dello scorso anno del 5-7%, per cui immaginiamo che se l'andamento climatico continuerà ad essere favorevole, sostanzialmente dovremmo a fine vendemmia, e quindi diciamo a fine ottobre, quando saranno raccolte le ultime uve, dovremmo portare a casa oltre i 44 milioni di ettolitri di produzione. Apriamo il primo tema della nostra trasmissione, le sfide della nuova RAI, giorni di riassetto in Viale Mazzini, martedì la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione, ieri la designazione di Monica Maggioni come nuovo presidente, atteso oggi o domani il nuovo direttore generale, quasi scontata la nomina di Antonio Campo Dall'Orto, già direttore di La 7 e di MTV. Ricordiamo che il 31 luglio l'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge di riforma della RAI con 142 voti a favore, 92 contrari e nessuno astenuto. Il testo emerso dopo l'esame dei singoli articoli vede il via libera all'emendamento del governo che conferisce al prossimo direttore generale nominato con la legge Gasparri i poteri previsti per l'amministratore delegato nella riforma a partire dalla sua entrata in vigore. Fatto sta che comunque il nuovo consiglio di amministrazione è stato rinnovato con la legge Gasparri, quindi con le vecchie regole della lottizzazione, nessuno si nasconde a dirlo. È il nostro ospite Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Gentili. Buon pomeriggio a voi. Guido, parto subito con una domanda che ci fanno i nostri ascoltatori al 349-238-6666. Perché innanzitutto poi ci addentriamo logicamente sulle dinamiche RAI, anche in base a quello che oggi hai scritto sul Sole 24 Ore. Perché ci scrivono quello che accade in RAI viene sempre seguito con così tanta attenzione in un mondo, quello della comunicazione, dove ormai le piattaforme si sovrappongono e l'utente finale sceglie sempre di più da solo on demand? Perché la RAI, comunque, tutto ciò che accade a Viale Mazzini ci interessa così tanto? Ci interessa così tanto perché è una stortura della politica. La RAI è un'azienda ibrida, è un'azienda di Stato, è un'azienda dove la mano della politica ha ancora un peso molto forte. Del resto la RAI è un formidabile serbatoio di consensi anche elettorali, è inevitabile che diciamo la politica si occupi di RAI, e questo diciamo è un prezzo molto alto che questa azienda paga, perché magari si pensa molto diciamo alla spartizione del potere all'interno di quella che viene definita la più grande industria culturale del paese, ma poi ci si occupa meno di come questa azienda possa camminare verso un futuro diverso, tenendo conto che in questo campo tutte le cose nel mondo stanno cambiando alla velocità della luce. Quindi ecco, da una parte un serbatoio di consenso politico, dall'altra una RAI che non si riesce comunque a gestirla in maniera come se fosse un'azienda sana. Ricordo, la RAI ha chiuso il bilancio 2014 con un utile di 58 milioni, ma soltanto grazie ad una plusvalenza straordinaria di 228 milioni derivante dalla quotazione in borsa del 35% del capitale di Rai Way. La RAI percepisce un canone come prevede la legge, sono invece cresciuti i costi operativi. Riprendendo la tua analisi di oggi sul Sole 24 Ore, esordisci, Guido, scrivendo: di sicuro la nuova RAI parte in salita. Come mai? Parte in salita perché, diciamo, hai un po', diciamo, tu hai dato molte cifre che dimostrano quanto, diciamo, la partita sia difficile, quella che si trova a affrontare la nuova coppia di comando, il nuovo presidente, il nuovo amministratore delegato e poi, diciamo, supportati dal nuovo consiglio, perché è un'azienda che ha molti problemi, ha certamente delle grandi opportunità anche che potrebbe cogliere, ma oggi fa i conti con una situazione, diciamo, dal punto di vista del bilancio non del tutto riposante, soprattutto in prospettiva per gli anni prossimi, e fa i conti con una mancanza, diciamo, di linea editoriale strategica, diciamo così, su quello che deve fare la RAI, perché poi, diciamo, si fanno tante discussioni un po' fumose diciamo, che cosa significa il servizio pubblico televisivo. Poi, quando, diciamo, si entra nel merito di questi problemi, ovviamente ci accorgiamo che l'azienda non è gestita come, diciamo, sì, sono gestite per esempio tante aziende private, quindi, diciamo, è in affanno sui conti, ed è in affanno perché ha una governance complicata dove appunto incide molto la politica. Certo, tra l'altro aggiungo altri numeri nella nostra discussione, questo per riprendere le tue parole: un'azienda che alla fine è ibrida, nel senso che non è né un'azienda condotta totalmente come se fosse un'azienda pubblica, cosa che è, però per esempio anche i ricavi dal canone hanno subito un calo di ben 165 milioni lo scorso anno. Dall'altra parte non fa l'azienda come se fosse una TV privata, perché anche qui di pubblicità i ricavi sono crollati del 30%. Uno può anche dire: va bene, c'è la crisi, crolla in generale la pubblicità in tutti i mezzi di comunicazione, ma la RAI ha fatto peggio del mercato della pubblicità televisiva nel suo generale. Quindi veramente è difficile inquadrare e gestire l'azienda che si muove, sempre parole tue, a comparti. Spiegaci cosa intendi per comparti. Intendo, io mi sono rifatto a una definizione che aveva diciamo, portato all'attenzione del pubblico molto di recente, peraltro, la presidente uscente Anna Maria Tarantola, che diceva appunto che la RAI, diciamo, è strutturata, diciamo così, per comparti. Dice: un coacervo di realtà che sono stratificate, incastrate, avviluppate su se stesse, e non si comporta come azienda, come un corpo solo, ma, diciamo, secondo logiche di separatezza. E quindi è un'organizzazione a silos, diceva la Tarantola, e mi sembra che, diciamo, che da questo punto di vista sia abbastanza efficace questo disegno che è stato fatto dall'ex presidente. Questo è un problema di questa azienda che diciamo, si è sviluppata per stratificazioni successive, è sempre stata poco attenta ai costi, è sempre molto attenta, diciamo, agli spifferi della politica. Quindi è chiaro che, diciamo, nel momento in cui si trova a dover cambiare pelle e non solo pelle, proprio sostanza, a dover trovare, diciamo, una nuova bussola per quello che deve fare, la situazione è abbastanza complicata, anche perché ovviamente la crisi, come ricordavi tu, diciamo, abbiamo avuto anche i problemi, diciamo, tutti i mezzi di comunicazione hanno avuto problemi dal punto di vista di ricavi pubblicitari, a questo aggiungiamo anche il calo del canone, e quindi è evidente che questa azienda si è trovata in difficoltà, ma soprattutto, certo, per me la cosa più importante è la difficoltà è per quanto riguarda la strategia per il futuro, che ancora deve essere disegnata. Quindi questo è il compito che aspetta, ecco, diciamo, la nuova dirigenza. Infatti ti trattengo veramente altri due minuti, Guido, affrontando e volendo dare un contributo ad un dibattito sul futuro della RAI. Un nostro ascoltatore dice: per la RAI ha senso la quotazione in borsa? Quali possono essere i settori in crescita oltre alla pubblicità? Questo al 349-238-6666. Ma avrebbe senso, certo che la quotazione in borsa avrebbe senso. Ora, noi sappiamo, lo hai ricordato tu, che sono calati gli introiti del canone e questi hanno creato molti problemi alla RAI, e per questo è stata collocata in borsa un pezzo dell'azienda che è Rai Way, no? Certo. Proprio per far fronte a questo problema. Ora, purtroppo la parola privato con la RAI si abbina con grandissima difficoltà, perché potremmo discutere, sono state fatte anche delle grandi e belle discussioni sulla privatizzazione della RAI, ma non siamo poi mai arrivati a nessuna conclusione, perché poi evidentemente la politica, prima di lasciare e abbandonare la RAI, ci pensa non due ma quattro volte. Avrebbe un senso, e forse chissà che non sia proprio le condizioni del mercato nel futuro, che sta cambiando con grandissima rapidità e con grande intensità, non costringono a rivedere anche questo punto. Questo sarebbe per esempio un aspetto molto interessante. Ecco, ma la riforma Renzi, la riforma che al momento ha fatto non tutto il percorso parlamentare, va nel senso di seguire un mercato in profonda trasformazione, quindi una convergenza tra pay TV, programmi in chiaro, ma anche con l'ingresso degli operatori telefonici? Delle comunicazioni. Mi sembra che la riforma Renzi, più che altro, sia una riforma che punta soprattutto a cambiare la governance societaria dell'azienda. Questo è certamente un aspetto importante, perché, come diciamo prima, appunto è un'azienda che ormai si era strutturata per silos e non si comportava come un'unica entità. Quindi una riforma societaria sicuramente della governance è opportuna, però non può esaurirsi lì. Ora noi avremo presto il direttore generale che prenderà un altro vestito, indosserà un altro vestito, cioè i panni dell'amministratore delegato, con dei poteri molto rafforzati, e sarà un vero capo azienda. Questo è certamente un punto importante, un punto che può essere utile. Quello che manca però è ancora l'indicazione appunto di quello che deve fare, e quindi mi pare che invece sulla svolta strategica, sulle politiche editoriali che deve mettere in campo, se trasformarsi in una media company seguendo quelli che sono anche gli sviluppi nel resto del mondo, questo dovranno dircelo, perché questo la riforma non ce lo dice così chiaramente. Quindi aspettiamo i prossimi passi della riforma, vedremo anche le nuove nomine che poi a cascata riguarderanno i vari canali RAI. Grazie Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Brevemente ricordo, il FTSE MIB ha chiuso pochi istanti fa, meno 0,42%, dopo meteo e pubblicità la borsa e poi il matrimonio tra Wind e Tre. Focus Economia. Sette 17:36 Focus Economia, e siamo alla borsa. Ci concentriamo sulle contrattazioni di Piazza Affari, lo facciamo con il collega Guido Maurino di Radio Corre il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Guido. Buon pomeriggio a voi. Borse europee che ho visto stare sempre intorno alla parità, ma forse più verso la flessione, Guido. Sì, sono state per tutta la giornata attorno alla parità, poi in chiusura hanno accentuato leggermente le perdite, anche perché Wall Street ha accentuato a sua volta i suoi cali, però che è stata una giornata abbastanza tranquilla per le piazze europee. Forse l'unico elemento così da segnalare è il ritorno in positivo della borsa di Atene, che dopo le prime tre sedute pesanti dalla riapertura della borsa ha finalmente chiuso in positivo e ha guadagnato il 3,6%. Ecco, concentrandoci su Piazza Affari, Monte dei Paschi di Siena va bene in attesa dei conti, dopo quelli di Intesa San Paolo e Unicredit, comunque sopra le attese. Sì, diciamo che il mercato oggi ha un pochettino scommesso sul fatto che anche Monte dei Paschi possa presentare dei conti sopra le attese, così come è successo nei giorni scorsi per Intesa San Paolo e Unicredit. Le stime degli analisti parlano di un ritorno all'utile per il secondo trimestre per circa 40 milioni, che porterebbe gli utili semestrali attorno ai 100 milioni, e si andrebbero a confrontare invece con delle perdite registrate negli stessi periodi dello scorso anno. Male invece Mediaset, in una giornata segnata anche in America da vendite sul settore media dopo i conti deludenti di Fox. Sì, negli Stati Uniti appunto i conti deludenti di Fox e di altri gruppi del settore media hanno fortemente penalizzato i titoli. La stessa Fox perdeva circa il 10%, Viacom addirittura quasi il 20%. Anche in Europa questo si è fatto sentire, Mediaset ha ceduto il 4,27%, tra l'altro va ricordato che oggi è stata anche forse un po' l'occasione per prendere un po' di beneficio su Mediaset, che aveva corso molto, soprattutto nel mese di luglio, certo, arrivando a guadagnare circa il 10% da inizio luglio. In perdita il titolo Tenaris, mi sembra di aver capito che i conti diffusi sono stati giudicati deboli dagli analisti. Sì, sono stati giudicati deboli perché sia i ricavi a 4,12 miliardi di dollari sia l'utile netto a 326 milioni sono entrambi in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre le aspettative per l'azienda che produce, lo ricordiamo, tubi per gas e petrolio restano deboli. Il management della società ha sottolineato come questo trimestre, quindi il terzo trimestre, potrebbe essere un trimestre particolarmente debole e una ripresa potrebbe avvenire nell'ultima parte dell'anno invece. E poi un'importante fusione tra due società che operano nel settore dei rifiuti e servizi ambientali, parliamo di titoli fuori dal listino, Biancamano e Kinexia. Sì, questi due titoli che sono fuori dal listino principale oggi si sono messi in evidenza, diciamo soprattutto in mattinata. Alla fine Kinexia ha chiuso in guadagno del 3,96%, mentre Biancamano ha ripiegato leggermente a meno 0,1%. Le due società hanno annunciato un processo di fusione che sarà completato nel 2016 e che porterà a creare un gruppo di maggiori dimensioni con 260 milioni di ricavi e un margine operativo lordo di 60 milioni. In particolare questo è anche un modo che consente a Biancamano, che era in ristrutturazione finanziaria, di trovare un partner che le consenta un po' di uscire da una situazione di crisi. E in ultimo Guido, Telecom, evidentemente anche sotto la pressione della nuova alleanza di cui parleremo tra breve tra Wind e 3 Italia, comunque è rimasto in terreno di debolezza oggi, sì. Comunque evidentemente ci sono state delle prese di beneficio. Sì, oggi ha ceduto l'1,85%, c'è sicuramente questo fattore della fusione fra Wind e 3 Italia, ci sono anche fattori più legati alla società, in particolare si aspettano i conti, il CDA per l'approvazione della semestrale questa sera, mentre i conti dovrebbero essere diffusi domani in mattinata. Le aspettative sono abbastanza incerte, anche perché i conti della controllata brasiliana Team Brasil, che sono stati diffusi nei giorni scorsi, sono stati considerati comunque deboli. Bisognerà vedere a questo punto, a livello di capogruppo, cosa sarà riuscita a portare a casa il gruppo italiano. Benissimo, grazie a Guido Maurino di Radio Corriere del Sole 24 ore. Questa è una prima parte su Piazza Affari. Ora ci dedichiamo nello specifico all'accordo tra Wind e 3 Italia. E per capire bene il valore, l'importanza di quest'intesa, questa fusione tra Wind e 3 Italia, è con noi Andrea Biondi, il collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a voi. Innanzitutto sono giusti i dati che possiamo leggere adesso in agenzia, nei vari siti, laddove si parla di un valore di quest'intesa che supera i 60 miliardi? Ma sì. in questo momento, insomma, effettivamente si parla di un'intesa corposissima, di un'intesa che darà delle grandi sinergie, di un'intesa che porterà, insomma, alla nascita di un operatore che sarà, diciamo, leader nel mercato delle telecomunicazioni italiane. Quindi è un'intesa di grandissimo valore e di grandissima importanza per tutto il mercato. Ecco Andrea, perché si è arrivati a, comunque, a questa fusione di due marchi molto importanti e che comunque avevano una loro presenza ben definita sul mercato? Diciamo che è una tendenza che era purtroppo inevitabile, perché il mercato italiano non poteva reggere la presenza di quattro operatori mobili. Wind e Tre Italia, soprattutto per questo, nel passato hanno cercato di aggredire il leader Vodafone e soprattutto Telecom, abbassando i prezzi, facendo una guerra, certo, di prezzi, che però in qualche modo è stata molto penalizzante per tutto il settore, tant'è che due anni fa, nel 2013, è stato chiuso con una perdita di ricavi da servizi, cioè proprio la vendita dei servizi, per 2,8 miliardi, cioè hanno perso 2,8 miliardi rispetto all'anno precedente, mentre nel 2014 hanno perso 1 miliardo e 7. Quindi in qualche modo la presenza di quattro operatori non era supportabile dal mercato italiano, certo, non era supportabile tanto più in un quadro globale in cui le alleanze si stanno moltiplicando anche in paesi diversi dall'Italia. Certamente, quindi quattro operatori sono troppi nel nostro paese, ma leggendo comunque i dati di Wind, era stato comunque premiato dai ricavi, leggo nei primi sei mesi dell'anno stabilisce la migliore performance nel segmento dati mobile e i ricavi totali al 30 giugno si attestano a 2.160 milioni di euro. Evidentemente però la sua aggressione sulle tariffe la farà meglio con un alleato forse un po' più debole, Tre Italia rispetto a Wind? Non considererei il discorso in questi termini, nel senso che, come dire, c'è una visione strategica della quale tenere presente, cioè il mercato, quello che succederà sul mercato anche nei prossimi tempi, c'è la necessità di sostenere i ricavi, ma c'è la necessità anche di sostenere gli investimenti certo, nelle reti mobili, perché la telefonia di quarta generazione, il 4G, sta andando avanti e Wind e Tre sono un pochino più indietro rispetto a TIM e Vodafone. C'è la necessità di investire nelle reti fisse. Wind ha Infostrada e in qualche modo bisognerà rimettere al centro Infostrada anche delle politiche. Certo. Ed è chiaro che con delle sinergie tutto questo diventa molto più semplice. Quindi in questi termini che va affrontato il mercato, cioè non della performance del trimestre in corso o via dicendo, ma, come dire, in una visione di lungo periodo nella quale, ripeto, la presenza di quattro operatori mobili, ai quali si aggiungono i vari operatori virtuali che sono sul mercato, da Poste Mobile. Certo, che poi ulteriormente segmentano il mercato, indubbiamente. Esattamente, quindi la presenza di questi operatori mobili in qualche modo rende il mercato molto più difficile, molto più competitivo. Il consolidamento, di cui si è sempre parlato, di cui da tempo si è parlato, è sicuramente una tendenza positiva e diciamo i due operatori che potevano unirsi in questo senso, Wind e Tre, l'hanno fatto. Quindi un'unione strategica in un mercato, ne parlavamo prima anche per la televisione, dove vede gli operatori telefonici poi interagire ed entrare attraverso i nuovi mezzi che offre la tecnologia anche nel mondo televisivo. Ah, sicuramente, e questo è, come dire, è proprio il discorso che riporta alla necessità di investire. È un mercato che, anche complice la guerra dei prezzi, ha perso ricavi, però è un mercato in cui si è continuato a investire. Secondo gli ultimi dati Astel, gli investimenti sono aumentati del 7%, nonostante un calo dei ricavi. Certo. E tutto questo, come dire, ha necessità di un ecosistema che possa reggersi. L'ecosistema, purtroppo, o per fortuna, necessitava di un consolidamento che è arrivato, perlomeno il primo passo, perché adesso bisognerà attendere i placet delle autorità dell'antitrust italiano e europeo che dovranno arrivare entro 12 mesi, ma la strada è tracciata. La strada è segnata. Grazie, grazie ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Adesso il traffico e poi l'ultima parte dedicata al dissesto del territorio italiano. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Parliamo ora del dissesto che purtroppo colpisce il nostro territorio. Lo abbiamo anticipato oggi, il governo ha presentato un piano proprio per contrastare questo dissesto che supera il miliardo, cifre che ballano tra 1,2 e 1,3 miliardi. In realtà i soldi subito disponibili sono esattamente la metà, ma ci spiega tutto meglio il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Arona, che è qui accanto a me. Buon pomeriggio, Alessandro. Buonasera ai radioascoltatori. Sì, diciamo che il tema del dissesto idrogeologico, il problema che l'Italia deve affrontare è enorme. Quello di oggi è un primo importante passo e sicuramente il governo attuale rispetto ai precedenti sta dando dimostrazione di voler affrontare questo tema in maniera più seria. Quello di oggi è un piano per le aree a maggior rischio per la popolazione, quindi innanzitutto le grandi città, e se guardiamo la lista c'è Genova, Milano, Firenze, Bologna e alcune altre zone, la Versilia, Pescara, sono tutte Padova. Sono tutte zone colpite di recente da alluvione, quindi è il primo intervento di emergenza nelle zone a maggior rischio e si tratta quindi in larga parte di interventi, diciamo, che mettono tra virgolette una pezza a situazioni. Ecco, che tipo di interventi? Ecco, sono interventi, diciamo, che sono su città in cui sostanzialmente nel corso degli anni, in maniera, diciamo, sbagliata, ma ormai parliamo di programmazione, pianificazione e realizzazione urbane di decenni, sono stati intubati, irreggimentati fiumi, interrati i fiumi e quindi non hanno spazio per esondare quando c'è quando ci sono piogge eccezionali. Quindi da una parte i fiumi interrati, soprattutto le città del nord. Questo è sostanzialmente il problema che si affronta. E dall'altra le frane. Sì, il problema delle frane non c'entra con questo piano di oggi. Il piano di oggi sostanzialmente, ecco, su Genova, dove si concentrano le maggiori risorse, si creano sostanzialmente gli scolmatori, cioè sono tubi interrati dove se c'è una piena si dà modo al Bisagno e il Ferreggiano di scaricare le acque di piena. In altri casi, come a Milano con il Seveso o come a Firenze, si fanno vasche di laminazione, cioè sono vasche artificiali dove il fiume, se c'è una piena, può allagare, diciamo, in maniera naturale. Questi sono interventi, diciamo, un po' di emergenza, ma che sono importanti. I finanziamenti sono 650 milioni, poi ci sono altre risorse precedenti, le opere sbloccate oggi sono 800 milioni. È una coincidenza che oggi, con lo stato di emergenza per il Veneto dichiarato dal Consiglio dei Ministri ma anche dal governatore del Veneto Zaia, sia arrivato questo piano o erano invece... No, in realtà è una coincidenza perché a questo piano si lavora in realtà da mesi. Questa è la dimostrazione che le cose sono in realtà molto complicate. Questo piano il governo l'aveva annunciato già nel dicembre scorso, poi i fondi sono stati stanziati dal CIPE a febbraio, la Corte dei Conti ci ha messo mesi a registrare la delibera, a definire la lista ci è voluto altro tempo e quindi si sbloccano adesso. Poi bisognerà fare gli accordi di programma con le regioni, i bandi di gara. Purtroppo l'Italia e la burocrazia è molto complicata. Diciamo che queste opere finanziate oggi dovrebbero partire, diciamo, nella prima metà del 2016. Il problema è che il problema è molto più ampio, cioè il problema è quanto bisogna spendere per affrontare il tema del dissesto. Ecco, un miliardo è sufficiente quando mai ci sarà tutto? Assolutamente no. Si stima che il fabbisogno totale per l'area a rischio sia di oltre 40 miliardi di euro, una cifra enorme. Perché si è arrivati a questo punto? Si è arrivati a questo punto innanzitutto per un problema di incuria del territorio, cioè si è costruito troppo in aree a rischio, cioè i fiumi esondano, i fiumi allagano, è un fenomeno naturale, però se i fiumi si chiudono in argini troppo stretti, si interrano nelle città, si costruisce in aree dove dovrebbero esondare, chiaramente succedono questi problemi. Questo si sa da decenni, in Italia non si è affrontato. Poi in questi ultimi anni ci sono i cambiamenti climatici, le bombe d'acqua che chiaramente aggravano questo problema. Quindi questo tema del dissesto idrogeologico, che non è stato affrontato dai governi precedenti, hanno stanziato poco e male, certo. Adesso è ancora più grave per il problema dei cambiamenti climatici. E su questo ti interrompo un attimo, perché il ministro Del Rio dice infatti: in passato errori di pianificazione, ma adesso i soldi ci sono. Ascoltiamo questo passaggio. Siamo di fronte appunto ad alcune buone notizie, il fatto che esista un piano organico, che siano stati classificati gli interventi sul livello di pericolosità e di esposizione al rischio delle popolazioni, cioè che non ci sia discrezionalità, diciamo, nella decisione del dove allocare le risorse, che siano stati sollecitati, ed è quello che, a cui noi teniamo molto, come sapete il Presidente del Consiglio ha voluto le unità di missione a Palazzo Chigi esattamente perché venissero monitorizzati gli interventi, stimolati le cantierizzazioni. Pensate che diversi miliardi erano bloccati all'inizio del nostro governo, diversi miliardi. Nell'ultimo anno l'unità di missione ne ha sbloccato lavori per quasi un miliardo, e anche quella sulla scuola ha avuto un'azione simile. Quindi siamo molto impegnati a far ripartire cantieri, perché i cantieri significano lavoro, significano sviluppo, significano appunto ripresa della cura e della manutenzione del nostro territorio. Noi purtroppo scontiamo errori anche di pianificazione urbanistica, nel senso che le città non hanno tenuto presente le variazioni e le potenzialità di queste variazioni climatiche molto spesso, quindi dobbiamo imparare a pianificare meglio. Abbiamo quindi reso molto fragile il nostro territorio, e come tutte le fragilità adesso c'è bisogno di una cura molto più intelligente, molto più costante, c'è bisogno di un lavoro quotidiano, perché questo piano ha questo aspetto molto importante, visibile, di affrontare oggi le prime emergenze, ma vuole darsi un orizzonte per non piangere più vittime, se non in casi appunto impossibili da prevedere, e per non avere più, diciamo, discussioni sulla mancata manutenzione del nostro territorio. La cura e la manutenzione sono le parole chiave, una pianificazione urbanistica e territoriale più intelligente è un'altra parola chiave, il recupero dei cantieri è la terza parola chiave. Rimaniamo ancora nell'ottica di dover recuperare del tempo perduto, quindi abbiamo ancora lavori per 1,8 miliardi da recuperare sul dissesto idrogeologico, sugli sistemi idrici e fognari, quindi dobbiamo accelerare molto e contiamo di recuperare anche questo 1,8 miliardi nel 2016. E queste dunque le parole del ministro Del Rio. Tre i cardini, secondo Del Rio: cura, manutenzione e cantieri. Con noi Alessandro Arona del Sole 24 Ore. E in sostanza però mi sembra, Alessandro, dimmi se sbaglio, che è comunque un'azione tutta tesa a riparare qualcosa che è stato sbagliato nel passato. Non c'è nulla di programmabile per il futuro. Per adesso no, questo piano è per le emergenze, però indubbiamente il governo sta lavorando un piano più ambizioso su più anni, che dovrebbe valere 7-8 miliardi di euro. E il governo ha capito che per fare un piano fatto bene bisogna programmarlo bene e progettarlo bene, però anche qui le cose sono molto complicate. Ha chiesto alle regioni un aiuto, farsi dare i progetti prioritari, hanno presentato una lista per 22 miliardi di opere, il 90% era senza progetti, erano un nome su un pezzo di carta, senza progetti. Non si può finanziare un piano senza progetti. Allora il governo ha stanziato un fondo per fare i progetti, però il fondo è allegato a una legge che giace in Parlamento da mesi, il collegato ambiente, non è ancora approvato, quindi il fondo di progettazione è finanziato dal CIPE ma non è ancora operativo. Le cose sono molto complicate. Cose complicate, Alessandro, abbiamo ancora 30 secondi, ma per ricapitolare, quindi per il momento sono 650 milioni disponibili, da chi saranno gestiti questi soldi? Dai commissari regionali, questa è una norma nuova, sono i commissari e i presidenti delle regioni con pieni poteri, possono fare le gare, revocarle, riassegnare, hanno pieni poteri e piena responsabilità. Sta a loro adesso realizzare queste opere, 800 milioni di euro, 650 del governo e 150 locali, per fare almeno tamponare le emergenze. Poi ci sarà il piano a cui si sta lavorando per 7-8 miliardi nei prossimi anni. Ed altri soldi arriveranno evidentemente dovranno arrivare con le leggi di stabilità, quindi questa è un'altra sfida. Beh, a trovare le risorse. Grazie ad Alessandro Arona del Sole 24 Ore. Per oggi è tutto, un ringraziamento a Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, Valerio Orchetti e Pietro Lacorte in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.